versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo mercoledì 22 di ottobre, 16:36, 35 secondi. Ve lo dico subito, l'argomento del giorno, anzi questa non è un argomento, questa è una puntata dedicata a coloro di cui ci dimentichiamo troppo spesso, cioè i pensionati. Quindi se siete pensionato o comunque avete un'idea di come i pensionati se la passano nella vostra famiglia, vostri amici e così via, telefonate all'830240024, perché stamattina, dopo quello che era successo, che adesso vi rispiegherò, sul pagamento posticipato delle pensioni in Italia previsto nella legge di stabilità, di cui ci si è accorti, colpa dei giornalisti in questo caso, tardivamente, perché non avendo i testi, le bozze, si va a vedere le cose più rilevanti, naturalmente si considera questa non rilevante, c'è stato un giallo, abbiamo passato 24 ore con l'annuncio che per 16 milioni e 130.000 trattamenti previdenziali cambiava, slittandoli 10 giorni, il giorno di corresponsione mensile al 10 di gennaio, è successo un patatrac, come ovvio, di polemiche, secondo me, più che giustificate. Poi c'è stata un'interpretazione, che adesso vi spiegherò, da parte dell'INPS e del governo stamattina in tarda mattinata, ma comunque ci siamo messi una mano sulla coscienza e ci siamo detti: ma è possibile mai considerare noi tutti i pensionati così trascurabili che scopriamo una cosa simile, sia pur nella bozza, perché sapete che il testo è arrivato solo ieri al Quirinale e non ha ancora l'ok della Ragioneria Generale, però la scopriamo solo dopo 6 giorni? Questo la dice lunga, la dice lunga sui meccanismi automatici dell'informazione. E quindi telefonate per dirci come la pensate su questo. Adesso vi chiarirò com'è il giorno del pagamento, però non solo su questo, perché non dimentichiamoci noi tutti che non è che c'è solo il blocco degli aumenti degli stipendi pubblici in corso al 2011, c'è anche il blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.400 euro, e vi ricorderò quanti milioni di italiani riguarda. Aggiungiamoci che da luglio per tutta l'estate, da giugno per essere più precisi, è stato detto ai pensionati italiani, ufficialmente, formalmente, dal governo Renzi, che potevano sperare nella legge di stabilità nell'estensione del bonus 80 euro che è andato ai lavoratori dipendenti di più basso reddito e che naturalmente non è andato ai pensionati. I pensionati hanno scoperto anche nella bozza della legge di stabilità che invece la promessa per loro non è mantenuta, perché non ci sono le risorse per estenderlo né ai pensionati entro una certa soglia di reddito, né agli incapienti, cioè ai milioni di italiani che sono davvero poi nelle condizioni di povertà assoluta e che non hanno preso niente in questo 2014 e che, almeno allo stato attuale della legge di stabilità, continueranno a non vedere nulla nemmeno nel 2015. Perché il bonus 80 euro resta confermato a chi l'aveva, poi c'è lo sgravio IRAP, c'è tutto quello che volete voi, ma per chi sta sotto la linea del IRPEF, cioè chi sta veramente peggio, non c'è nulla. Allora, telefonateci per dire come avete reagito a questa storia, come è l'interpretazione autentica del pagamento. Quello che avete trovato sui giornali stamattina, cioè le pensioni slittano tutte al 10 del mese, senza preavviso ai milioni di pensionati, è stato corretto perché la notte ha portato consiglio e quindi l'interpretazione autentica è che questo slittamento al 10 del mese riguarderà solo dei 16 milioni e 100 mila rapporti previdenziali che vengono corrisposti ogni mese agli italiani. Questi 16 milioni e 100 mila sono il totale delle pensioni pagate, i pensionati sono circa 12 milioni, perché ovviamente c'è chi ha poi un doppio assegno. Ecco, non riguarderà più tutti i 16 milioni, ma ne riguarderà poco meno di 1 milione, cioè coloro che si trovano a incassare doppio assegno, uno dell'INPS e uno dell'INPDAP. Fino a quest'oggi come funzionava? Come sapete, se siete pensionati e avete l'assegno INPS, viene pagato l'assegno INPS il primo di ogni mese, mentre quello dell'INPDAP viene pagato, retaggio della gestione separata dell'INPDAP prima della confluenza dell'INPS, il 16. E per questo poco meno di 1 milione di pensioni adesso si unifica la data al 10, mentre per le altre 15 milioni di pensioni resta tutto così com'era. Però ovviamente questa scossa elettrica, perché la norma, io ve lo posso dire, la norma per come era scritta nella bozza che abbiamo noi giornalisti da 5 giorni era inequivocabile, cioè era inequivocabile perché diceva che per tutti slittava di 10 giorni, e la cosa incredibile è che veniva dichiarata per un risparmio di 6 milioni di euro, dimenticando naturalmente integralmente che per 15 milioni di italiani a quel punto sballava assolutamente la data di tutti i pagamenti previsti, perché quando uno c'ha il reddito fisso, solo la pensione, su tutti i pagamenti dalle tariffe all'affitto eccetera eccetera, beh, non è che gli cambi niente se voi invece di darglieli il primo del mese glieli date il 10 i soldi, e cambia tutto, come ovvio. Si tratta di andare sotto con interessi negativi nel conto. Ecco, tutto questo non c'è stato nella preoccupazione di chi ha scritto quella norma, che viene evidentemente da formulazioni tecniche all'interno dell'INPS. L'hanno messa dentro dandogli così poco rilievo e attenzione che altrettanta cosa abbiamo fatto noi tutti i giornalisti. Questa cosa è, secondo me, la dice lunga. Ora, se andiamo a vedere poi l'universo delle pensioni italiane, scopriamo che oltre ad aver bloccato l'aumento automatico per quelle sopra i 1.400 euro, la Corte, ve lo ricordate, poi ha bloccato anche i prelievi di solidarietà per le pensioni alte che erano stati previste dal governo Monti. Ma ricordiamoci in come è diviso questo universo, come è formato questo universo di 12 milioni e più di persone che ogni mese hanno questi 16 milioni e 100 mila assegni previdenziali. Di questi 16 milioni e 100 mila assegni previdenziali, circa 10 milioni e mezzo, 10 milioni e mezzo su 16 milioni e 100 mila, sono sotto la soglia dei 1.500 euro al mese. Ecco. A dirvi la verità, abbiamo quasi 2 milioni, 1 milioni e 800 mila per essere precisi, che non arrivano a 500 euro al mese, 1 milione e 800 mila assegni al minimo proprio. Ecco, sono 1.800.000. Poi, nella fascia di coloro che hanno una pensione da 500 a 1.000 euro ci sono altre 4.800.000 persone, e nella fascia da 1.000 a 1.500 euro ce ne sono altre 3.700.000. Quindi noi abbiamo, entro una fascia, chiamiamola comprensiva, ma solo per la parte più elevata di quello che l'Istat considera un assegno previdenziale in linea con la retribuzione media di una famiglia italiana, ci abbiamo la bellezza di 10,4 milioni di persone, però ne abbiamo 6 milioni e 4 che non arrivano a 1.000 euro. Poi, nella fascia superiore, che ancora sicuramente non è il benessere e la ricchezza, poi noi tra i 1.500 e i 2.000 euro abbiamo 2 milioni e 600 mila assegni. Poi sopra i 2.000 euro, tra i 2.000 e i 3.000 euro, ne abbiamo 2 milioni e 100 mila, e sopra i 3.000 euro, cioè la soglia famosa che poteva riguardare i contributi di solidarietà, abbiamo 900.000 persone. La differenza è che queste 900.000 persone, cioè il 6% del totale delle pensioni che si pagano nel nostro paese, però pesano per il 19%, quasi il 20% del totale dell'erogato. Naturalmente, niente di male. So che chi ha la pensione ce l'ha avuta in linea con le leggi esistenti all'epoca, però ricordatevi che noi continuiamo a dare, siccome le pensioni si pagano in un sistema di ripartizione in base ai contributi raccolti di chi lavora oggi, noi possiamo pagare queste pensioni solo grazie al fatto, siccome il totale fa più del 16% del PIL ogni anno, solo grazie al fatto che ogni anno noi dalla fiscalità generale, cioè dalle tasse di tutti, non dai contributi che si raccolgono, ci aggiungiamo 58 miliardi di euro dalle tasse. Ecco, questa sono i dati numerici del problema, però lì ci sono milioni di persone che ogni mese, soprattutto, ripeto, i 10 milioni e 4 che stanno sotto i 1.500 euro al mese, sono chiamati a fare i cosiddetti salti mortali. Sono questi quelli ai quali queste ultime 24 ore, secondo me, hanno dato una riconferma del fatto di essere trascurati, perché sabato avremo giustamente la grande manifestazione nazionale della CGIL, del lavoro dipendente, i precari e così via, però tendiamo a dimenticarci che noi a 10 milioni e mezzo di italiani con la pensione sotto il livello del reddito pro capite medio annuale, li teniamo in una condizione, secondo me, Non voglio dare giudizi pesanti, però mi ha veramente colpito come uno schiaffo. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. Come immaginavo, alcuni ascoltatori, una minoranza assoluta, però dicono: ma stai parlando di una cosa che non c'è, ti stai inventando una cosa. No, c'è per, comunque per un milione di persone. Allora, vi faccio riflettere, visto che per voi è un non problema. Noi a un milione di persone gli cambiamo comunque i giorni di corresponsione dell'assegno, perché l'assegno che avevano il primo dell'INPS non ce l'avranno, devono aspettare 10 giorni, e per essere chiari lo facciamo per far risparmiare 6 milioni allo Stato. In totale l'INPS ha voragini per miliardi, muove il 16% del PIL ogni anno. Questi 6 milioni lui li risparmia perché, concentrando la movimentazione di tesoreria, pagherà meno interessi per 6 milioni. Però intanto devastiamo la vita a un milione di italiani. Voi dite che è un non problema? Certo, sarebbe stato peggio se avesse riguardato 16 milioni e 130 mila pensioni invece che un milione. La mia opinione è che 6 milioni di risparmio, perché risparmia sugli interessi il conto di tesoreria dell'INPS, non giustificano l'impatto, che sarà enormemente superiore sulla vita di un milione di italiani. Questo a me pare un signor problema, perché c'è qualcuno pure che mi insulta. Se siete così diventati filogovernativi da non capire che la gente va trattata un po' meglio, fate come volete, io non mi rassegno. Sentiamo come alcuni diranno: i pensionati adesso diranno che sono tutti alla frutta. Cosa vogliamo fare? Vogliamo impedire di dircelo? Non li vogliamo ascoltare? E questa è la vostra concezione di democrazia? Mi arrabbio, si alzo la voce. Secondo me noi, come nel fare informazioni, dobbiamo sentire soprattutto quelli che non ce l'hanno, altrimenti cambiate stazione. Allora, Efrem da Brescia, prego Efrem. Dottor Giannino, no, buongiorno. Oscar Giannino e basta. Va bene, e grazie per l'opportunità che mi dà. Un altro grazie ancora per il megafono che dà a questo problema, perché nessuno ne parla, non ne parla più nessuno. Noi pensionati siamo relegati in un angolo, non serviamo più, siamo solo a disposizione dello Stato come una banca. Quando servono i soldi, da chi si va? Si fa dei pensionati. 16 milioni di pensionati, un euro a testa, sono 16 milioni a fine mese pronta cassa. Ecco, questo qua è un dato di fatto. Poi l'altro dato di fatto che lei ha sollevato e ha sottolineato, e grazie per averlo fatto, è questo di aver inserito dentro in questa legge, che è al vaglio e per fortuna che l'hanno modificato, questo cambiamento di ritiro dell'assegno, perché ai primi del mese tutti i pensionati hanno i loro problemi, hanno i problemi per gli affitti, per le scadenze, per quanto riguarda i mutui e quant'altro, e si fa affidamento su quei pochi soldi, certo, che ci sono. No, non aver tenuto in considerazione questo è un'ulteriore sottolineatura di ciò che lo Stato verso questi pensionati è il polso della situazione, cioè non siamo tenuti in nessunissima considerazione. Efrem, e malgrado tutto la percentuale di pensionati nei sindacati è diventata superiore al 50%, per la CGIL è superiore al 50%, per la CISL poco meno. Secondo me Efrem ha ragione. Chi mi fa notare, ma come, prendono due pensioni? Cari miei, pensateci un secondo, la maggior parte di coloro che hanno una pensione INPS più INPS vuol dire che ha versamenti per tratti diversi della propria vita, capite? Non so se è chiaro. E la pensione INPS, se è andata in pensione negli ultimi 2 anni, ce l'ha perché è integrativa rispetto alla congiunzione, alla fusione, quando ha assorbito l'INPS e la sua enorme voragine contabile. L'INPS non è che chissà che cosa hanno, per essere chiari. Dopodiché, se il problema è il sistema del pubblico impiego era li premiava di più rispetto alle pensioni private a parità di reddito, la risposta è sì, ma questo è un altro problema ancora. Quindi c'è chi mi chiede i dati delle classi di pensionati, dove si trovano? Tutte le cifre che vi ho dato innanzitutto erano al lordo, non al netto, per essere chiari. Li trovate, se andate sul portale dell'INPS, andate a vedere la relazione, c'è una relazione annuale dell'INPS, è uscita 2 mesi fa, la trovate nel portale. Il portale dell'INPS è molto complicato, però lo trovate. Se andate, la cosa più rapida è andare dove vi dicono press, le informazioni per la stampa, e vedrete la relazione annuale, e c'è un allegato ogni anno fatto sui conti dell'anno precedente. Se il giornale che secondo me oggi meglio rappresenta i dati che vi ho detto è La Stampa, lo trovate a pagina 4 della Stampa, però quelle sono le cifre. Sentiamo come la pensa Nicola da Rimini. Prego Nicola. Buonasera dottor Giannino, io sono combinato come tutti gli altri, se non peggio, anche perché sono ammalato, purtroppo se mi tolgono, me le mettono il 10 di ogni mese, io non so come fare a pagare l'affitto di casa, non so, e pensi che io prendo due pensioni, 700 euro in due, ecco, appunto. E non ce la farò, non ce la farò, io spero di morire domani, dopodomani, no, io vivo così perché non ce la faccio più, non ce la faccio più, mangio una volta al giorno, sono ammalato, ho un tumore. Fortuna che ce l'ho questo tumore, a questo punto devo dire Nicola, perché, non dica perché così. Mi danno un accompagnamento e con quello io riesco ad andare avanti. Ah, per questo, beh, certo è terribile ragionare così. Un abbraccio Nicola da parte mia, lo capisco, io posso sperare solo che averlo detto in qualche maniera. Spero che finisce presto. No, non deve finire presto, ci vorrebbe un diverso modo di venire incontro a chi ha questi problemi. Giorgio da Milano, come la pensa Giorgio? Hanno rotto le palle questi pensionati, Giannino, cioè non è possibile, qui il problema è sono disoccupati che non arrivano a fine mese lo stipendio, il pensionato prende grosso modo, la maggior parte dei pensionati, lo stesso stipendio di chi lavora, no. Fa un cazzo tutto il giorno, no, la maggior parte, guarda, la maggior parte sì. I numeri sono quelli che ho dato. Giorgio, se vuoi dire che i pensionati prendono più soldi del lavoro dipendente in Italia, Giorgio, non è vero. La maggior parte dei pensionati non è vero. Prendono lo stipendio di un lavoratore, primo, secondo, quando un disoccupato e affitti da mantenere, qual è il problema? Se uno prende 600-700 euro di pensione al mese, anche se tardano 10 giorni, ma chi se ne frega, Giannino, se tardano 10 giorni, non è il problema, sono tutte palle. Giorgio, posso dirti fuori dai denti invece di continuare a urlare come la pensi? Giorgio, invece di continuare a urlare, penso che, ti capisco, aver accettato di dividerci gli un contro gli altri tra chi sta peggio e ognuno che dice sto peggio io, stai zitto tu, è la prova della grande vittoria dello Stato che si becca il 51% di tutto ciò che è l'economia italiana e che continua a dividerci in questo modo. È ovvio che anch'io penso che i disoccupati che non arrivano alla fine sono un enorme problema, però non è che quello sono il problema e chi campa con poche centinaia di euro di anziani ce ne fottiamo, perché questo significa essere una città morta, capisci? Io vorrei soluzioni per entrambi, è una follia pensarlo? Non è vero che guadagnano di più i pensionati dei lavoratori dipendenti, non è vero, io vorrei cambiare il sistema che premia le pensioni più elevate rispetto ai pochi contributi che hanno versato e per questo mi dicono che sono un darwinista, però non è vero, sentiamo ancora Luigi d'Alessandria, prego Luigi. Sì, buonasera signor Giannino, scusi per l'emozione. Io faccio una premessa, io sono un dipendente privato, quindi io lo stipendio lo prendo sempre dal 14 al 16 del mese successivo. Ma non mi ha mai fatto, non mi ha mai cambiato la vita, sì, onestamente. Sì, sì. Quindi, parlando da matematicamente, cioè, posso capire il pensionato il primo mese il problema, perché il primo mese. E giustamente... poi adegueranno le scadenze, anche questo è giusto, per carità. Allora, mucchio di telefonate a cui non ho dato retta, ovviamente, però continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.